Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, questo è il messaggio che avete udito da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non meravigliatevi, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Ma che bella questa lettera di San Giovanni Apostolo, veramente stupenda. Qui abbiamo tutto il contenuto del cristianesimo. Dice: Figlioli, questo è il messaggio che avete udito, che ci amiamo gli uni gli altri. Ecco, Giovanni parla continuamente dell'amore. Perché? Perché Giovanni l'ha sperimentato sulla sua carne l'amore di Dio, ha visto Gesù morire, l'unico che è rimasto sotto la croce insieme alla Madonna, quindi ha avuto proprio l'esperienza di vedere che cosa vuol dire amare. Amare vuol dire dare la vita. E dice: chi non ama rimane nella morte. Che cosa vuol dire? Chi non ama è un cadavere. Avete presente che cos'è un cadavere? Un cadavere è un essere senza vita. Non attira per niente, non attira nessuno, nessuno vuole vedersi cadavere, nessuno vuole sentirsi cadavere ambulante. E chi non ama rimane nella morte. Ma che brutto rimanere nella morte, quanto è brutta la morte. Nessuno ama la morte, nessuno vuole la morte. Ma se noi non amiamo, siamo cadaveri ambulanti. E poi dice: in questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Perché dice quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli? Perché Gesù non solo ci ha dato la vita, ma ci ha dato poi a nostra volta la capacità e la possibilità di donarla agli altri, perché è come un genitore che non solo insegna a fare le cose per il figlio, ma insegna il figlio a fare le cose stesse che sa fare lui. Quindi ci dà anche la capacità di fare quello che fa lui. E quindi anche noi dobbiamo amare i fratelli. E poi dice: ma non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Ecco, oggi ripetiamoci questa parola: io voglio amare con i fatti e nella verità. Che cosa vuol dire amare con i fatti e nella verità? Amare con i fatti vuol dire passare al concreto, passare al pratico, non vivere di intenzioni, di desideri, di propositi, di risoluzioni, di belle parole, di begli intendimenti, ma invece di fatti, fatti, fatti contano moltissimo. E poi amare nella verità. Che vuol dire amare nella verità? Noi sappiamo che nessuno può amare se non riceve l'amore da Dio. Più siamo uniti a Dio, più riusciamo a amare. Quindi amare nei fatti e nella verità non solo vuol dire amare concretamente, ma amare nella verità vuol dire amare attingendo l'amore da colui che ci può dare l'amore. Ecco perché è importante la preghiera, ecco perché è importante stare con Gesù. Tanti dicono: va bene, ma l'importante è comportarsi bene. Ma come fai a comportarti bene se tu non sei unito a colui che è il bene? Sì, lo puoi fare per un po', lo puoi fare in alcuni ambiti della tua vita, ma quando ti costa, quando veramente è superiore alle tue forze, non ce la fai, non ce la fai. È per questo che Sant'Agostino dice una frase che poi ve la ripeto alla fine, che è l'aforisma di oggi. Fai quello che puoi e chiedi quello che non puoi, ed egli farà in modo che tu possa. Fai quello che puoi e chiedi quello che non puoi, ed egli farà in modo che tu possa. Ecco, bisogna amare coi fatti e nella verità. Nella verità vuol dire anche secondo la nostra professione, secondo il nostro stato di vita. Per esempio, vi fidereste voi a salire su un aereo se fosse guidato da invece che da un pilota, da un chirurgo o da un architetto? No, vi fideresti a farvi costruire la casa da un chirurgo? No, vi fideresti a farvi operare da un architetto? No, ognuno deve fare le cose che è competente fare, quindi anche noi dobbiamo amare coi fatti e nella verità, cioè secondo il nostro stato di vita. Se io sono un uomo sposato, devo amare mia moglie e i miei figli in un modo particolare. Non posso amare al modo del sacerdote o al modo del monaco o al modo del single o al modo di chi non so, non crede. Devo amare come un uomo sposato. Quindi se voglio amare i miei figli, devo prima amare mia moglie. Questo è importantissimo. Se volete il bene dei vostri figli, crescete i vostri figli in un ambiente d'amore. E non c'è niente che fa crescere meglio i nostri figli che amare il proprio coniuge. Quindi impegniamoci di più ad amare nei fatti e con la verità. E pregando il Signore, dove non arriviamo, che intervenga Lui. E quindi vi ripeto l'aforisma di oggi, che è quello appunto di Sant'Agostino, che dice così: fai quello che puoi e chiedi quello che non puoi, ed egli farà in modo che tu possa. Buona giornata.